e questo mondo finirà come un eco, senza pietà, senza pietà. Un mondo in burrasca, sangue sulle scarpe, e il mio amore a te non basta. Mancata festa, luce, luce persa. E questo mondo nutre sempre l'ingordo, coriandolo nel vento di un carnevale pagliaccio di lacrima, sorriso di lacrima amara, burrasca che intona una sinfonia rara. Decimati i bimbi che giocavano dispersi con l'eroina nel mare acido di una collina di tristezza. Siamo goleador di un gol che nessuno mai vedrà.